Canto 21 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 21. La sete natural che mai non sazia, se non con l'acqua onde la femminetta samaritana dimandò la grazia, mi travagliava e pungeami la fretta per l'impacciata via dietro il mio duca e condoliemi alla giusta vendetta. Ed ecco, sì come ne scrive Luca, che Cristo apparve a duo che erano in via, già surto fuor della sepolcral buca, ci apparve un'ombra e dietro a noi venia, da pie guardando la turba che giace. Ne ci addemmo di lei, si parlò pria, dicendo: «Frati miei, Dio vi dea pace!» Noi ci volgemmo subito, e Virgilio rende lui il cenno, cacciossi con face. Poi cominciò: «Nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte, che me rilega nell'eterno esilio!» «Come?» disse egli. «E perché andate forte? Se voi siete ombre che Dio su non degni, chi va per la sua scala tanto scorte?» E il dottor mio: «Se tu riguardi i segni che questi porta e che l'angel profila, ben vedrai che coi buon convien che i regni. Ma perché lei che dì e notte fila non gli aveva tratta ancor la conocchia che Cloto impone a ciascuno e compila, l'anima sua, che è tua e mia sirocchia, venendo su non potea venir sola, però che al nostro modo non addocchia. Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per mostrargli, e mostrerolli oltre, quanto il potrà menarmi a scuola. Ma dinne, se tu sai, perché tai crolli diedianzi il monte, e perché tutti ad una parver gridare infino a suoi piei molli?» Sì mi die, dimandando, per la cruna del mio disio, che pur con la speranza si fece la mia sete men digiuna. Quei cominciò: «Cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna, o che sia fuor d'usanza? Libero è qui da ogni alterazione di quel che il ciel da sé in sé riceve, esserci puote e non d'altro cagione. Perché non pioggia, non grando, non neve, non rugiada, non brino più su cade che la scaletta dei 3 gradi breve. Nuvole spesse non paion né rade, né corruscar, né figlia di taumante che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non surge più avante che al sommo dei 3 gradi ch'io parlai, dove ha il vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco o d'assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come, quassù non tremò mai. Tremaci, quando alcuna anima monda si sente, sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia il sol voler fa pruova, che tutto libero a mutar convento l'alma sorprende e di volerle giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia con tal voglia, come fu al peccar, pone al tormento. Ed io, che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentii libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto e li pii spiriti per lo monte render lode a quel signor che tosto su gli invii.» Così li disse e, perocché si gode tanto del ber quanto è grande la sete, non saprei dir quanto mi fece prode. E il savio duca: «Omai veggio la rete che qui vi piglia e come si scalappia, perché ci trema e di che congaudete. Ora chi fosti, piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sé nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito con l'aiuto del sommo rege vendicò le fora onde uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dure più onora, e rio di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirito, che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio, la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma cadde in via con la seconda soma. Al mio ardor fur seme le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di mille. Dell'Eneide dico, la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando. Senz'essa non fermai peso di dramma. E per esser vivuto di là, quando visse Virgilio, assentirei un sole più ch'io non deggio al mio uscir di bando. Volse Virgilio a me queste parole, con viso che tacendo dicea: «Taci, ma non può tutto la virtù che vuole». Che riso e pianto son tanto seguaci la passion da che ciascun si spicca, che men seguono volerne più veraci. Io pur sorrisi come l'uom c'ammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca. E se tanto lavoro in bene assommi, disse: «Perché la faccia tua te steso un lampeggiar d'un riso dimostrommi? Or son io d'una parte ed altra preso. L'una mi fa tacer, l'altra scongiura ch'io dica, ond'io sospiro e sono inteso. Di, il mio maestro, e non aver paura, mi disse di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazione vo che ti pigli. Questi, che guida in alto gli occhi miei, è quel Virgilio, dal qual tu togliesti forte a cantar degli uomini e dei dèi. Se cagione altra al mio rider credesti, lasciala per non vera, ed esser credi quelle parole che di lui dicesti». Già si chinava ad abbracciar i piedi al mio dottor, ma egli disse: «Frate, non far, che tu sei ombra ed ombra vedi». Ed ei, surgendo: «Or puoi la quantitate comprender dell'amor che te mi scalda, quando dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda». Fine del canto 21.